strade bianche sporche, hashish poema, slara la mattina, successo fumetto frigidara, porno riviste, banchi in sottofondo, proietto montagne di euro su Picassiano sfondo, alieno non alieno, arriva e vieni meno, anche se ti rempo da scemo, o sotto sclero, la bambina di far festa, rime tempesta, kafkiana droga mi resta, luce perdente, senza Dio, senza pace, ho dalla vita un fendente, al cuore morbente. Soldi sporchi, strade senza sbocchi, dell'eroe ieri, oggi manca come ieri, vestito Prada, troppo in alto per sta strada, che ci hanno unito a sé, e come fango scorrono tra i piedi, rimangono così echi, in stormi di parole anche di amici, che la paranoia ieri trasforma i nemici, lascia scorrere parole come lame di pensieri sublimi, angeli mi parlano, sembrano i miei frati, l'odio della strada insegna paradossalmente misericordia, codardia non concessa solo forse davanti alla fossa. Vestito alla non festa, vorrei fare solo soldi e basta, il frate Coco Chanel, cancan di eroine, cocaine pure, in pipette perfette da fumare, roba da sniffare, serata cosmica nucleare, i miei fra vogliono ascoltare. Vestita alla non festa, vorrei fare solo soldi e basta, il frate Coco Chanel, cancan di eroine, cocaine pure in pipetta da fumare, roba da sniffare, serata cosmica nucleare, i miei fra vogliono solo svoltare, i miei fra vogliono solo svoltare. Ascissi, rapide, piatte e pazzi, ascissi, poema, glera, alla mattina successo, fumetto, frigidaire, porno, riviste, panchi, sottofondo, proietto, montagne di euro sul Picassiano sfondo, alieno, non alieno, arriva e vieni meno, anche se ti rappo da scemo, col sottosclero, la banda in vena di far festa, rime tempesta, kafkiana droga mi resta, blues del perdente, senza Dio, senza pace, ho dalla vita un fendente al cuore mordente, ho dalla vita un fendente al cuore mordente. El niño loco, rapa vida loca, vestida la coca, el pequeño bimbo mexico latino, el niño loco, rapa vida loca, vestida la coca, el pequeño bimbo mexico latino. El niño loco, el niño loco, el niño loco, rapa vida loca, que sidra la coca, el pequeño bimbo mexico latino. Bam, bam, bam, bam. El niño loco, rapa vida loca, que sidra la coca, el pequeño bimbo mexico latino. Sole del mattino.